Buonasera. Che bello essere qui. Ti senti in famiglia? Questo è l'obiettivo. Che noi formiamo una famiglia nel Signore. Non siamo qui per trascorrere un'ora e mezzo, che è anche buono, perché nella fratellanza ogni cosa è buona. Ma siamo qui nella fucina di Dio, dove veniamo forgiati e preparati, perché basta che una sola parola tocca il cuore tuo, il cuore mio, e noi ce ne andiamo con quella parola, quello cambia un aspetto della nostra vita. E noi siamo in questa maniera equipaggiati in Dio. Perciò siamo qui. Sei qui per questo motivo? E anche se non lo sei, me l'hai sentito. Va bene? Quindi siamo qui per quello. Che bello essere insieme. Anzi, diglielo a quello a fianco a te. Nunzia, diglielo al Vito, che quello ha bisogno di sentirlo. Siamo qui veramente per formare una famiglia e la formiamo. Abbiamo cantato avanti insieme, quella è come un poco una richiesta. Noi stiamo andando avanti insieme in tutto quello che facciamo e che realizziamo nel Signore Gesù. Bene, io voglio leggere subito un passo dalla parola di Dio che, vi avverto subito, non è proprio il soggetto di questa sera, ma è talmente bello che prepara il soggetto che noi andremo ad affrontare questa sera. Il passo è in Efesini, al capitolo 1, dal verso 3 al verso 8. Vedete quanto è speciale e quanto è eccezionale questo passo per tutti noi. È una proclamazione che Paolo fa di me e di te, di tutti quanti noi. Dice: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, secondo il disegno benevolo della sua volontà. Ascoltate adesso, allode della gloria della sua grazia. Allode della gloria della sua grazia. Non lo so che vuol dire, però sarà una cosa proprio incredibile, che ci ha concessa nel suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, che Egli ha riversata abbondantemente su di noi, dandoci ogni sorta di sapienza e di intelligenza. Non ti viene l'affanno? È incredibile la ricchezza di questa parola per noi. Lo so, molte di queste frasi sembrano delle frasi fatte e dobbiamo andare dietro per comprenderne il significato pieno, però racchiudendo tutto in una parola o in una frase o in un termine, qui non vuole dire altro che tu ed io incredibilmente siamo benedetti oltre misura. Noi siamo abbondantemente benedetti. Incredibile. Sei benedetto. Lo so che lo senti a credere mentre stai affrontando una malattia. Ma il Signore dice che anche in quella malattia tu sei benedetto, perché hai Lui. Lo so che lo stendiamo a credere una cosa del genere quando stiamo affrontando un problema o una difficoltà in famiglia o il lavoro che non c'è o qualsiasi altro motivo, ma la parola di Dio e la proclamazione di Paolo per noi dice che tu sei incredibilmente, abbondantemente benedetto. Lo stendo a credere, ma io lo voglio credere, perché questo io sono in Cristo Gesù. E mi possono far vedere ogni altra cosa, e il diavolo può insinuare ogni bugia che vuole, ma io sono questo in Cristo Gesù. E noi lo dobbiamo ripetere continuamente a noi stessi. Quando ti guardi allo specchio, invece di andare a vedere i brufoli e il pelo in più, vedi la benedizione di Dio nei tuoi occhi, nel tuo volto, perché Dio ti ha grandemente benedetto. Se vogliamo usare un termine moderno, sei fortunato, grandemente fortunato. Ma ripeto, questa è solo la preparazione a quello che è il soggetto che noi, perché il soggetto che noi affronteremo questa sera è a che cosa siamo chiamati. E per afferrare bene il senso di, non dobbiamo pensare che a chissà quale grandi cose noi siamo chiamati, a quale grande missione il Signore mi ha chiamato. No, molto semplicemente. Pensate a Caino. La storia di Caino, Abele, la conosciamo, sì. Sarebbe proprio... Dobbiamo fare l'interrogazione? Facciamo l'interrogazione, vai. Che cosa chiese Dio a Caino? Ben preparati, pastore, hai visto? Dov'è? Questa è la prima pagina, questa della Bibbia, se non è quella. Dov'è tuo fratello? La risposta di Caino, quale fu? Non sono il custode di mio fratello. Non sono il custode di mio fratello. Ed è proprio quello che noi siamo. Tu sei. Quello che Caino ha mancato, noi siamo. Noi dobbiamo imparare da Caino per dire: io mai voglio essere così. Io sono il custode di mio fratello. E Dio mi ha chiamato a essere custode e sentinella del mio fratello. Non è così perché non mi interessa, basta che sto bene io, non mi interessa dell'altro. Vedi, se funzionasse così, allora saresti solo al mondo. Ma hai una famiglia, vivi in una città, vivi in una strada, e tutto questo indica che noi siamo custodi l'uno dell'altro. Ricordati di Abele e di Caino, voglio dire, e di a te stesso. Questo è scritto in Genesi al capitolo 4, al verso 9, e di: io sono il custode e la sentinella di mio fratello. Qual è la funzione della sentinella? Perché questo è proprio il fulcro del soggetto, essere sentinella. E vogliamo vedere che cosa significa essere sentinella nella pratica, perché però per capire la sentinella dobbiamo tornare un poco nel tempo, è vero? Quando le città erano fortificate, erano circondate da mura che la fortificavano, la città, e alla sommità di queste mura c'era un camminamento. Questo serviva sì per i soldati, per prendere posizione e contrastare il nemico che arrivava da giù, però serviva ancor di più alle sentinelle di stare sopra per guardare, e loro Se queste mura avevano delle torri, allora c'erano tante sentinelle quante torri c'erano, e facevano avanti e dietro, oppure proseguivano, e ogni volta che si incontravano dovevano dire una parola d'ordine, o spesso era tutto va bene. Tutto va bene, come si passavano, come dire, il testimone, e facevano e guardavano a 360 gradi, perché quando erano due poi si giravano, uno guardava da là e l'altro all'altro lato, quindi erano completamente coperti. A questo serviva la sentinella, a guardare fuori l'arrivo del nemico, ma a guardare anche dentro se il popolo era vigile e attento. E infatti uno dei ruoli delle sentinelle, parliamo di allora, sapete qual era? Ogni tot tempo gridare che ora era. E dovevano gridare. E questo è durato fino al Medioevo. Sono le 3 del mattino e tutto va bene, tu stai dormendo e ti senti sta voce squillante. Questo, anche quando era nelle città, giravano e scandivano gli orari per far comprendere che durante la notte andava tutto bene. Questo era il ruolo della sentinella: guardare, vigilare, avvisare. Beh, a questo la devo raccontare uno, vai, dai. Non credo che l'ho mai raccontato, perché sono quelle cose di cui ti vergogni, sono quelle cose che ti fanno sentire talmente tanto imbranato e impacciato che non le vai mai più a raccontare. Ma siccome è una cosa di quasi 50 anni fa, allora lo posso fare adesso tranquillamente. Facevo il militare. Mi hanno chiamato per il militare e sono arrivato in ritardo, questa è tutta un'altra storia, sono arrivato all'ultimo momento all'addestramento e appena arrivato mi hanno fatto la vestizione. Siccome ero l'ultimo, che non c'era più nessuno, le taglie le avevano già assegnate. Mi hanno dato una tuta con 20 elastici perché la dovevo tenere su. Io piccolino, sempre sono stato, quindi statuto, tutti elastici. Immaginate che un elmetto, non lo so se la testa stava nell'elmetto o l'elmetto sulla testa, ma era una cosa incredibile. E poi subito ci hanno addestrati per fare la guardia. La guardia alla, non polveriera, ma armeria, all'armeria. E le storie, che poi sempre ci sono quei militari bravi che ti raccontano le storie. E mi ricordo ancora, dice, sai, l'altra notte una guardia ha sparato perché ha visto un'ombra, poi era un gatto, mo è in arresto. Proprio per metterti la fifa pura dentro, proprio per farti tremare. E ci hanno addestrato a come si faceva la guardia, portare il fucile a tracolla, tutto vestito come che andavi in guerra. E poi quando arrivava il sottotenente con due sottufficiali dovevi gridare alto là, fermo sparo, una cosa del genere, no? Allora io stavo là 4 ore, era far la guardia, no? Attento, con gli occhi, ero ben formato perché li avevo, me le ripetevo perché era una cosa, era come quando, sai, quando eravamo piccoli, almeno quelli della mia età, che ti mandava la mamma, ti mandava a prendere un chilo di pasta e tu lo ripetevi, arrivavi là, mi dai un chilo di sale, e va proprio, funziona proprio così. Bene, allora io facevo questa guardia, a un certo punto è venuto il picchetto con il sottotenente, il fatto è che è vero purtroppo, va bene, ma io... e con due sottufficiali, con armati, allora io appena li ho visto, che avevo il fucile così, ho preso il fucile e subito ho detto, alto là, fermo o sparo. Allora, il sottotenente aveva visto, aveva capito e faceva così. Allora io ripetevo la frase. Alto là, fermo spara! E il sottotenente faceva ancora così. Allora io l'ho detto più forte, pensando che non voleva, la voleva sentire bene. Poi quel non ne ha potuto più e ha detto gira il fucile, perché egli aveva... Io come l'avevo preso così, non avevo mai preso il fucile in vita mia, non avevo fatto nemmeno l'esercizio del fucile, perché quello stava così, allora subito l'alzava. Poi non vi dico con la parola d'ordine, ma ha guardato il sottotenente, ha detto meno male che non siamo difesi da. Vedete, ero addestrato. Ero anche vigile, subito ho visto il movimento, perché stavo attento, forse era il coraggio della paura, ma stavo attento. L'arma non la sapevo usare. Allora immaginate se lì era realmente che veniva qualcuno che aveva male intenzione, che cosa dovevo sparare? All'indietro? Comprendiamo, ecco perché è importante che noi comprendiamo anche qual è il ruolo, perché noi siamo sentinelle l'uno dell'altro e siamo custodi l'uno dell'altro. Infatti in Isaia al capitolo 21 al verso 6 Isaia ebbe una visione dal Signore, e in questa visione il Signore gli diceva: metti delle sentinelle che avvisano, che avvertono e che danno l'allarme, affinché il popolo mio sia salvo nel tempo opportuno. La sentinella serve proprio per questo, affinché noi possiamo essere salvi, affinché noi possiamo essere salvaguardati, affinché noi possiamo ricevere quella protezione anche senza fare niente. Se tu sei sentinella del fratello e se tu dai l'allarme, la santità di cui abbiamo letto si verifica in una maniera incredibile. Ma adesso vediamo i due aspetti forse più forti dell'essere sentinella, qual è il ruolo. Abbiamo detto che uno è vigilare, vegliare. In 1 Corinzi al capitolo 16 il verso 13 io poi volevo fare una cosa, proiettare, però avevo pensato bene, proietto solo il primo passo e gli altri non li proietto, perché devono usare le Bibbie. Abbiamo le Bibbie? I telefonini. Avete la Bibbia sul telefono? Ma lo sai, perché la parola non è rilegata a quella cartacea. La parola è parola, comunque la leggiamo. Perciò vorrei che lo facessimo insieme. In 1 Corinzi, dicevo, al capitolo 16, leggendo il verso 13 e anche il 14, l'Apostolo Paolo, scrivendo a questa chiesa, noi dobbiamo immaginare che scrive a noi e dice: vegliate, vegliate, state, vegliare vuol dire state fermi nella fede. Poi dice ancora: comportatevi virilmente da uomini. Non ti vergognare dell'Evangelo, non ti vergognare di quello che sei e a cui il Signore ti ha chiamato. Sii uomo di Dio, dovunque tu sei, qualsiasi cosa fai. E poi dice ancora: fortificatevi, siate sentinella l'uno dell'altro, tra voi si faccia ogni cosa con amore. Vedete, essere sentinella vuol dire saper, soprattutto saper leggere i tempi che viviamo. Noi dobbiamo saper leggere le situazioni che stiamo vivendo e affrontarle con le armi che il Signore ha messo a nostra disposizione. Sappi vedere i pericoli che tu corri, ma anche i pericoli che il tuo fratello corre, e dai l'allarme. Tu non puoi cambiare la situazione, ma certamente puoi essere determinante affinché quella situazione venga cambiata totalmente, ma devi dai l'allarme. Vi ricordate, Paolo dice a Timoteo, il suo figlio spirituale, 1 Timoteo 4 verso 2, dice: predica la parola quando conviene e quando non conviene. E poi che dice? No, le ha detto. Che cosa ha detto? Esorta. Poi un'altra parola che forse non ci piace, qual è? Va bene, non ha detto sussurrare. Riprendi con ogni insegnamento. Questo vuol dire fino a quando l'altro comprende quello che sta vivendo. Questo è essere sentinella, a tempo e fuori di tempo, dice una versione, in ogni momento. Vedete, non è quando noi ci troviamo nelle situazioni e anche ci chiedono la nostra opinione o un consiglio o che cosa pensi tu, allora noi incominciamo a dire: io penso, oppure io credo. Quando è ancora peggio, ancora diciamo: io immagino. Questo non cambia nessuna. Tu puoi pensare quello che vuoi, è uguale a quello che pensa l'altro. Se tu pensi nero e l'altro pensa bianco, non cambia niente. Ma è la parola di Dio che è determinante, non quello che io penso, ma quello che la parola dice. In questi tempi stiamo assistendo a delle situazioni incredibili. Per esempio, alla televisione, no? Alla televisione abbiamo assistito, anche dai dibattiti abbiamo capito, anche se io direttamente non ho assistito, che qualcuno è andato in una classe a spiegare che cosa è il genere, che non è né genere femminile né genere maschile, in genere. Che rispondiamo noi a questo? Io penso che... No, la parola di Dio dice. E io mi attengo a quello che la parola di Dio dice, che mi sia conveniente o che mi sia sconveniente, che mi piace o non mi piace. Anche in questo periodo a Bari sta succedendo qualcosa che forse noi nemmeno sappiamo. Hanno stampato migliaia e migliaia di questi libricini dove spiegano il genere, dove dicono apertamente, e questo il comune l'ha fatto e viene distribuito nelle scuole, a bambini di 6-7 anni viene detto: non c'è né maschio né femmina, siamo tutti umani, poi ognuno sceglie il sesso a cui vuole appartenere. Che pensi? Io ti dico: non pensare, annunzia quello che la parola di Dio dice, perché noi siamo sentinelle. Noi dobbiamo gridare l'allarme, noi siamo tenuti a fare questo. A questo il Signore ci ha chiamato, questo è essere sentinello, questo è afferrare le armi del Signore e usarle, perché il Signore ci ha dato delle armi. Se noi pensiamo solo ai frutti dello Spirito Santo o ai doni dello Spirito Santo, queste sono armi spirituali. In 1 Corinzi 10 è scritto che il nostro combattimento non è contro sangue e carne, e le nostre armi sono potenti ad abbattere ragionamenti che si elevano contro la conoscenza di Dio. È incredibile. Ma dobbiamo usare la parola, dobbiamo utilizzare non il nostro pensiero o quello che noi più o meno crediamo o quello che più o meno è giusto, ma la parola di Dio. Questo è, anzi lo vedremo ancora di più, parla in nuove lingue. Quando non sai che pesce pigliare, che ti trovi in una situazione che non sai proprio che cosa devi dire o che cosa devi, che capita, parla in nuove lingue dentro di te. Riceverai talmente tanto un'ispirazione e una forza che interviene, che dopo ti meravigli di te stesso. Fai come Capitan Ventus, mi ammiro e mi stimo. E invece non è così, perché è il Signore che lo mette dentro di te. Ma usa quelle armi. Usa il discernimento, invoca il discernimento di Dio in quelle situazioni e vedrai che ricevi l'ispirazione di Dio. Perché c'è anche questo, che c'è qualcuno di noi che è anche naturalmente portato ad avere sempre la risposta pronta, sempre il versetto appropriato, quello non sono io, e che sempre sa dire nel momento opportuno, io quello che so fare e ho sempre fatto, dentro di me scoppiavo a dire: Signore, aiutami tu, perché da qui non esco. E il Signore sempre interviene. Usa la parola. Vedete, ora, se vogliamo, possiamo parlare di tutti i doni, dei frutti e così via dicendo, però io vorrei parlare di armi ben specifiche che sono anche ben spiegate. In Efesini al capitolo 6, al verso 10, che cosa dice questo passo? Di che cosa parla? Dell'armatura di Dio per noi. Lo vogliamo leggere insieme? Efesini al capitolo 6, dal verso 10. Anche questo è un passo incredibile. Ascoltiamo, ma anche leggiamo insieme. Dal verso 10 è scritto: del resto, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Ecco, qui dice: noi non ci dobbiamo scagliare l'uno contro l'altro, anche quando riceviamo del male, quando parlano male di noi. Non dobbiamo usare la frase fatta: io li metterei tutto al muro. Li devi amare. Questa è l'arma più potente. Proprio in quella situazione lo devi amare. E adesso vedete che cosa dice dal verso 13. Dice: perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi, ascoltate adesso, o leggete con me. Prendete la verità per cintura dei fianchi, dei vostri fianchi. Rivestitevi della corazza della giustizia. Mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito che è la parola di Dio. Pregate in ogni tempo per mezzo dello Spirito Santo. Questa è l'armatura. Molto se ha usato un esempio, una similitudine dell'epoca, perché il guerriero era armato in questa maniera e dice: prendete la cintura che tiene la veste, che tiene tutto unito. E che cos'è la cintura? La verità. Molto semplice, non andiamo ad approfondire chissà che cosa vuol dire. Vuol dire la verità. Dici la verità. Dilla sempre. Non ci sono momenti convenienti e sconvenienti a dire la verità. Dice, ma sempre, cioè, ci sono pure, noi le conosciamo, le bugie a fin di bene. Se è una bugia, come può essere a fin di bene? Se fa bene all'altro, perché dice la bugia, fa male a te che hai detto la bugia davanti a Dio. Allora, non è mai a fin di bene. Dilla, anzi, viene, perché sapete che cos'è? Anche la mezza verità, la fatica che devi fare quando hai detto una mezza verità, perché subito dopo la devi giustificare, perché c'è sempre quello che ti viene a domandare riguardo a quel fatto. E allora, siccome tu ti ricordi che hai detto così, allora devi aumentare un poco la dose, allora diventa già una mezza bugia. Questo poi, tornando a casa, che cosa succede? Dice, dove sei stata? Fatitica. E allora, che cosa hai fatto? E che cosa hai detto? E là viene, e devi anche, e conti, cioè, alla fine diventa talmente grande quella bugia che non sai nemmeno più da dove è partita. E fa tanto di... Dici sempre la verità, dici sempre, anche quando è sai, la cosa più brutta che ti può capitare quando dice la verità è che l'altro pensa, quando è scemo questo qua? E che ti interessa? Tanto lo pensa lo stesso che sei scemo. Quindi facciamolo normale. La cintura della verità. La verità, semplicemente la verità. Poi continua con la corazza della giustizia, che la corazza è la giustizia. Andatela a leggere poi a casa questi attentamente. La giustizia, se fosse a me, toccasse a me applicare la giustizia, io credo che alla fine rimarremmo io e Dio. Ma pensiamo un momentino a che cosa vuol dire realmente la giustizia. Se Gesù avesse dovuto applicare la giustizia nei miei confronti, io sarei stato interamente condannato e distrutto. Invece che cosa ha usato? Grazia, l'amore di Dio, questa è la vera giustizia. La giustizia equivale ad amare, molto semplice. Queste sono le armi che ci ha dato il Signore per essere sentinelle, vigili per noi e anche per gli altri. Velocemente, le calzature, che qui come viene chiamata, mettete come calzatura ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Ogni volta che tu annunzi la parola di Dio stai indossando dei calzari. Noi abbiamo, non lo so, oggi, proprio oggi pomeriggio leggevo la notizia di Giulia. Noi abbiamo Giulia e Marta. Preghiamo per Giulia e Marta? E che so, i funghi in mezzo... Preghiamo, questi sono la nostra avanguardia. E che testimonia, andata a fare la fila per ricevere il permesso per stare là. Ha avuto una possibilità grande di annunziare l'Evangelo a chi sta, per la curiosità che lei stava lì. Vedi, la curiosità degli altri diventa pane per noi. Quando gli altri sono curiosi, afferra a volo la situazione e annunzia l'Evangelo, che dà la prontezza dell'Evangelo. In Isaia al capitolo 52 dice: quando sono belli i piedi sul monte del messaggero che annunzia buone notizie. Questo è il simbolismo della parola di Dio, quando noi siamo pronti ad annunziare. Ci sono solo altre tre aspetti dell'armatura. Lo scudo della fede. Questo è incredibile, la fede. La fede è incredibile, perché dice che la fede spegne tutti i dardi infuocati del diavolo. Sapete che cosa vuol dire? Vuol dire che io posso pregare, che posso digiunare, che posso portare il cilicio, che posso, non lo so, quello che vogliamo fare, ma se solo ho un momentino fede, tutte quelle situazioni crollano. Allora la fede è qualcosa che si costruisce, nel senso che ogni volta che ti trovi davanti a una situazione che devi affrontare e che devi risolvere e che devi agire, parti dalla fede. Io credo, io mi obbligo a credere, io voglio credere che Gesù lo ha fatto per me. Obbligati a credere in ogni situazione. Questo spegne i dardi invocati del diavolo. È incredibile, le armi, vedete, molto semplici. Ancora continuiamo e andiamo verso il termine: l'elmo della salvezza. Sei quello che sei per la croce di Cristo Gesù. Sei quello che sei per il sangue che ha versato il Signore per te e per me. Se noi possiamo sperimentare la salvezza dell'anima nostra in ogni situazione è grazie al sacrificio di Gesù. Non lo dimenticare mai. Applicalo e mettilo davanti a ogni cosa che stai vivendo. La salvezza di Cristo Gesù attraverso il suo sangue e la croce. Questo, vedete che poi sono proprio le parti più delicate, la corazza e l'amore, la giustizia, l'amore, l'elmo, sono i punti più delicati di un corpo, e la salvezza che Cristo ci ha dato. E ultimo aspetto è, terminiamo, questo non ha nemmeno bisogno di tanti commenti: la spada, che è la parola di Dio, dove è scritto in Ebrei che è un'arma affilata a due tagli, che penetra fino a dividere le midolla dalle giunture, cioè da quello che è buono a quello che non è buono. Usa per te stesso anche la spada in ogni situazione. Non far agire sentimenti di vendetta, di rabbia, di orgoglio o di quant'altro. Usa la parola anche per te stesso. Vedrai la pace che è la serenità che sperimenti anche nelle situazioni più incredibili. Tu ed io siamo sentinelle l'uno dell'altro e siamo ben armati. E ricordatevi di quello che ho vissuto io come militare. Non lo usate così l'arma, ma usiamola nel modo opportuno e giusto, e noi vinciamo ogni situazione in Lui. Amen. Vogliamo alzarci in piedi e ringraziare il Signore. Padre, nel nome di Gesù, io voglio dirti grazie, grazie, grazie per come hai equipaggiato la mia vita in tutto questo tempo, Signore, rendendomi capace di afferrare quello che è il mandato tuo nella mia vita e nella vita di ognuno di noi. Perciò ti affidiamo noi stessi, oh Signore, finché possiamo essere l'immagine tua dovunque siamo. E grazie, ricordaci sempre di usare queste armi di cui ci hai equipaggiato. Grazie Gesù. Amen. Amen.